Italia in controluce. Una buona giornata da Alessandra Tedesco. Come ogni venerdì, oggi parliamo di scuola e in particolare delle scuole nelle zone terremotate dell'Emilia. La parola a Maria Piera Ceci. Scuola in controluce. Oltre 200 le scuole danneggiate in Emilia a causa del sisma, 100 solo a Modena, 60 a Ferrara, oltre 71.000 gli studenti a casa per i quali l'attività scolastica si è ormai interrotta da giorni. Numeri questi che però vengono continuamente aggiornati. Infatti ad ogni scossa i tecnici devono effettuare nuovi sopralluoghi e si ricomincia da capo. Torniamo a fare il punto anche questa settimana, lo sentiamo come doveroso del resto, con Stefano Versari, vice direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna. L'obiettivo nostro qual è? Riuscire a capire quali sono le scuole con maggiore gravità per cominciare a ipotizzare delle strutture prefabbricate per lo svolgimento delle aule e delle lezioni nel prossimo anno scolastico, perché i livelli primi livelli, gli A e B e C, saranno, come dire, sistemabili, recuperabili anche in tempi relativamente brevi, ma i livelli maggiori di gravità, di danno, chiederanno delle strutture provvisorie, adeguate, ma strutture provvisorie. Quindi lei per settembre non esclude che alcuni ragazzi possano fare scuola in prefabbricati, in casette? No, non lo esclude, anzi ne sono certo. Non è una bella notizia, perché insomma comunque fare scuola in queste condizioni non è agevole, insomma anche a livello psicologico non è un granché, lei lo sa? Guardi, il punto è questo, noi siamo in costante contatto con gli assessori dei territori comunali. Quando anche in questi giorni abbiamo ipotizzato ad alcune realtà l'ipotesi di trasporti degli studenti dal proprio comune di residenza ad un altro comune distante 30 km, in quel caso parlavamo di spostare gli studenti superiori a Modena, dove ci sarebbe la possibilità di accoglierli, la richiesta corale unanime che ci è venuta dal territorio è di non spostare i ragazzi. Gli effetti psicologici delle aule prefabbricate sono evidenti, ma quello che ci stanno dicendo è che per loro è ancora peggio vedere andare via i propri ragazzi. Quindi noi stiamo cercando di, ovviamente non escludiamo la possibilità di ospitare in altri edifici, come dire, dove è possibile, ma questo nella periferia dell'area terremotata. Nel centro dell'area terremotata non ci sono più edifici né pubblici né privati disponibili, ed è anche difficile trovare aree pubbliche da utilizzarsi, perché sono utilizzate per le tende, per gli alloggi. Quindi noi stiamo cercando di valutare con i sindaci e gli assessori cosa preferiscono. L'istanza che in questo momento ci stanno facendo è fra l'alternativa di portarli in edifici in muratura a 30-40 km di distanza e l'alternativa di tenerli qui in edifici, in aule dignitosissime ma prefabbricate, la richiesta è di tenerli lì, di tenerli con loro, di tenerli vicini, perché prevale in questo momento di grande preoccupazione e anche di grande debilitazione psicologica, prevale l'esigenza di non separare i nuclei familiari. I nuclei non vogliono separarsi, i genitori non vogliono che i propri figli vadano lontani, li vogliono tenere lì, sentono un bisogno di una contiguità costante, e se questa è la scelta noi la rispettiamo, e per rispettare questa scelta dobbiamo per forza di cose orientarci verso delle strutture prefabbricate. Esami di maturità che si avvicinano. Come faranno i ragazzi del cratere? Guardi, noi siamo in attesa di un decreto legge del governo, abbiamo intenzione comunque di adottare per le aree maggiormente colpite una soluzione di esame di Stato semplificata che non preveda lo svolgimento delle prove scritte, anche perché non abbiamo fisicamente, logisticamente le aule dove poter ospitare in contemporanea tutti gli studenti per delle prove scritte. Quindi ci stiamo organizzando per un esame di Stato che sarà comunque decoroso in una condizione di eccezionalità, e quindi sarà con modalità eccezionale. quindi la modalità orale consente di non concentrare molti studenti in un'area nello stesso momento e quindi ci permetterà di poterli svolgere regolarmente, seppure con questa appunto modalità eccezionale. Magari all'aperto, magari sotto le tende, insomma, in magari situazioni all'aperto, di sotto fortuna. Le tende, stiamo chiedendo, abbiamo delle tensostrutture. Com'è l'umore rispetto alla settimana scorsa? La settimana scorsa ci siamo sentiti, c'era molta voglia di ripartire, molta voglia di fare e il morale era piuttosto alto. Questa settimana, dopo le nuove scosse, gli insegnanti, i genitori, gli addetti ai lavori del mondo della scuola che lei sente quotidianamente, che umore hanno? L'umore è alto, l'umore è buono, il clima è positivo, la speranza è di costruire. Io ho ricevuto una telefonata anche poco fa dall'assessore di Finale Emilia che mi chiedeva alcune delucidazioni appunto per lo svolgimento degli esami di Stato. Loro stessi si fanno interpreti delle tensioni, cercano di rasserenare gli spiriti e gli animi delle famiglie che sono provate. Abbiamo questo movimento generale, questa verso le nostre scuole, verso questi territori, che stiamo cercando di convogliare con questa iniziativa che abbiamo avviato Adotta una scuola. Stiamo ricevendo decine di proposte di collaborazione, abbiamo avuto proposte di borse di studio in Francia, a Rouen, per due bambini, che abbiamo due ragazzi, abbiamo già individuato la scuola di Finale Emilia, un'altra scuola di Torino che ci ha dato disponibilità per delle risorse per una scuola primaria, abbiamo individuato un'altra scuola di Renato. Stiamo facendo quest'opera di collegamento che, al di là del sovvenire materiale, ha un effetto estremamente positivo dal punto di vista della percezione di non sentirsi soli, di essere accompagnati, di avere tante persone anche lontane che sono preoccupate e positivamente impegnate a esprimere la propria solidarietà. La scorsa settimana abbiamo sentito il racconto del preside di Mirandola, oggi andiamo invece a Renazzo, in provincia di Ferrara, per intenderci vicino a Sant'Agostino, quel Sant'Agostino diventato uno dei simboli di questo maledetto terremoto. Paolo Valentini è il preside del circolo didattico che comprende 18 scuole e 1400 studenti, dalla scuola dell'infanzia a quella primaria. Ma c'è una grande tristezza, perché questi sono luoghi in genere molto vivi, pieni di bambini, di attività, sono luoghi anche allegri perché sono pieni di colore, pieni di movimento, pieni di vitalità. Io la settimana, ieri l'altro, ho fatto il giro di tutti gli edifici con la protezione civile per valutare i danni e verificare l'agibilità o meno degli edifici, ed è una tristezza infinita vedere le crepe nei muri, vedere magari qualche scuola che è oggettivamente da abbattere, perché ci sono alcune scuole talmente lesionate che non potrà mai essere ripresa l'attività in quei locali e quindi dovranno essere demolite. Ora, nei giorni scorsi abbiamo assistito alla demolizione di molti campanili che rappresentavano la memoria storica, anche l'appartenenza, l'identità di un paese e di una popolazione attorno ai suoi monumenti storici. Adesso probabilmente qualche scuola dovrà essere abbattuta. Quindi insomma le sue scuole sono lesionate, qualcuna purtroppo non vedrà più fra i suoi banchi i ragazzini, i bambini. A livello... Però ecco, c'è anche una gran voglia di ricostruire e rifare. Nessuna amministrazione comunale intende abbandonare questi territori e si stanno cercando le soluzioni più idonee. In questo momento stiamo lavorando, oltre che sul versante del sostegno psicologico, anche dell'attivazione di servizi estivi. Servizi estivi, centri estivi, attività educative all'aperto. Certo, perché i genitori devono comunque lavorare, devono rimettere insieme le poche cose, diciamo, che ci sono. In un momento come questo, anche nelle famiglie dove magari non si fruiva di questi servizi, le condizioni precarie di collocazione familiare possono portare ad aver bisogno, ecco, di un servizio di supporto educativo estivo. Lei diceva sicuramente all'aperto, perché sì, immagino che anche i bambini nei luoghi chiusi, sì, non siano molto a loro agio in questo periodo. Ma sono soprattutto i genitori che hanno delle giuste preoccupazioni, qui subentra anche un fattore psicologico. In questi momenti avere delle travi di cemento sulla testa, o comunque essere in un edificio magari a più piani, non piace a nessuno, insomma. Qual è l'immagine che le resta più negli occhi in questi giorni, che l'ha impressionata di più? Beh, direi un bel laboratorio informatico che avevamo appena predisposto, che ha delle belle crepe, e anche un bel laboratorio musicale. E sono le strutture così un pochettino più belle, quelle che erano un po' il fiore all'occhiello delle scuole, quelle che però in realtà tutte, cioè in realtà tutte, quando vedi una crepa nel muro di una scuola pensi che prima di rimettere dentro dei bambini vuoi che quella crepa scompaia. È tutto per oggi, Italia in Controluce torna lunedì alle 6:30.